mondo. Friuli nel mondo, settima trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Profili di paesi, Gorizia. Testo di Carlo Luigi Bozzi. Partecipano alla trasmissione Lucia Schumann, soprano, Lucina Zuccolo, contralto, Renzo Guannini, tenore, Vittorio Buzzi, basso. La corale di Cormons diretta dal maestro Ugo Spessot. Chitarre e mandole del complesso Titta Marzuttini di Udine. Musiche originali di Evi. Il canto del Friuli di Augusto Cesare Seghizzi. Dall'alto del suo castello medioevale, dai tre poderosi torrioni che reggono le mura della seconda cinta, Gorizia saluta tutti i fratelli friulani che vivono e operano nelle Americhe. Saluta filialmente gli emigrati della terra isontina che vivono sui mari. Saluta gli italiani di ogni contrada che, dopo la sventura, la sentono più vicina al loro cuore. Mai, come nell'estate, essa scopre tra il fiume e il monte i suoi giardini fragranti di magnolie, la verde cintura che fascia il suo colle, il borgo e la trecentesca chiesetta di Santo Spirito, le taverne, il castello su cui biancheggia il leone di San Marco, tutte in fiore, i roseti che orlano il corso di questa mista orientale. Invero, chi la guardi dalle bifore della bottega del vino, dove si incontra il delizioso bianco del collio, esclamerà con il suo poeta popolare. Sorta circa 1000 anni fa, nel punto in cui convergono le valli dell'Isonzo e del Vipacco, assunse subito funzione di custodia e difesa dei facili passi delle Giulie verso le province transalpine. Il castello, che doveva conservare nella ricostruzione il volto del maniero nordico, fu il nucleo originario della città che andava mano a mano estendendosi sulle pendici del colle e nelle pianure solcate dall'Isonzo. Colonia retoromana e perciò nell'alto medioevo friulana ebbe, come tutte le terre dell'Italia settentrionale, dominio straniero e i suoi conti sono carinziani e tirolesi. Le vicende storiche sono connesse con le interminabili lotte fra l'impero e la chiesa, tra l'imperatore di origine germanica ed il pontefice romano. Motivo di attriti e di lotte feroci, il patriarcato di Aquileia, del quale i conti avrebbero dovuto essere gli avvocati e i difensori, ed erano spesso i nemici più accaniti. Noto l'episodio per cui il ferreo patriarca Bertrando, sceso in campo contro di essi, celebrò la messa di Natale del 1340 sotto le mura del loro castello. Per lunghi secoli, da Gorizia la potenza e prepotenza feudale, incoraggiata dagli imperatori tedeschi e dagli arciduchi d'Austria, si irradiò sulla patria del Friuli a portatrice di guerre e di devastazioni. Nel secolo XV, la dinastia goriziana, discesa dalla Pusteria ad erigere una barriera fra friulani e friulani, declina rapidamente, spegnendosi nel successivo secolo con il conte Leonardo, effigiato in armi sulla pietra tombale nel Duomo, fasciato quasi nella gelida incomprensione dei suoi sudditi, non tedeschi come riteneva, ma latini, friulani. Venezia, frattanto, in splendente ascesa su tutte le rotte mediterranee e sulla terraferma, approfitta della decadenza dei conti di Gorizia, occupa i territori patriarcali e spinge il suo dominio fino alle rive dell'Isonzo, erigendo terrapieni e fortezze contro i turchi. Ma il dissidio che strazia la patria del Friuli si perpetua tra il nuovo dominio veneto e gli imperatori d'Austria, eredi non proprio legittimi della contea goriziana. Per fortuna non solo tenebre s'addensano in mezzo alle lotte implacabili. Una luce di umanità e di poesia illumina le soste delle battaglie. Canto dei menestrelli, dei minnesinger, sotto le torri dei 300 manieri disseminati tra il Timavo e la Livenza. È l'inno dei trovatori che passa i muri merlati ed entra nelle sale a ingentilire i cuori, a muovere gli effetti.